Metti più scanda il complotto per infliggere il botto. Colpo di grazia, tag sulla serranda. Sfregio il cannibale politico corrotto. Idee invisibili, risibili, vendibili. Da mendicanti di consenso, politi, canti, scambi, voti, voti per incenso. E senza senso, ma è questo il tempo per un'altra rima. Contro il caro vita, è qui la sfida. E chi vola è solo un altro zombie che si fida. Crisi permanente, ho capito. Io vivo in uno stato cannibale impotente. Una fabbrica demente, hai capito. Ma io sono dalla parte della gente. Mente. Cannibali, siamo un popolo di obesi, pieni di carboidrati, democratici, italiani aristocratici. Cannibali, ora mangiateci. Cannibali, siamo un popolo di obesi, pieni di carboidrati, democratici, italiani aristocratici. Cannibali, ora mangiateci. Siamo cannibali, come questa società. Ci guardiamo, ci squartiamo e ci mangiamo. Ma alla fine sempre cani, scale, medit. Traigo prova, ce le feci qua. Niente conta come vi attenete. Dimmi chi c'è a cena che vi aggiungo un po' sta tavola. Del lato già seccato. Quanta carne hanno sbranato sti politici. Sono specifici moduli di slogan come per gli edilici. Siamo un popolo di obesi pieni di carboidrati, democratici, italiani, aristocratici. E violentando vergini nella terra dei morti viventi, più dei bimbi. Noi siamo oscuri nel mondo degli splendenti colori artificiali. Troviamo il male dentro i beni capitali. Tali talismani come bravi clericali. Amiamo Dio che sporca mani. Siamo un popolo di obesi pieni di carboidrati, democratici, italiani, aristocratici. Cannibali, ora mangiateci. Cannibali, siamo un popolo di obesi pieni di carboidrati, democratici, italiani, aristocratici. Cannibali, ora mangiateci. Dai scandamanda, scombicchi a chi do una botta di rime su sta strofa del cazzo. Mentre corra per picchiato sulla strada, penso che ammazza più la gola che una spada affilata. E c'è cannibalismo su sto suono. Oggi sono ingredienti per uno chef di carne d'uomo. Stasera c'ho un invito, ma mi sa che butta male. M'ha chiamato l'organizzatore di una campagna elettorale. Sono narcotizzato in mezzo a slogan e cori davanti a una famiglia come il bosco fuori. E mentre il banchetto si prepara per la festa, penso a farmi fuori con un colpo in testa. È meglio crepare, fa la terra per i ceci, che diventare pasto di affaristi biechi. Cannibali, siamo un popolo di obesi pieni di carboidrati, democratici, italiani, aristocratici. Cannibali, ora mangiateci. Cannibali, siamo un popolo di obesi pieni di carboidrati, democratici, italiani, aristocratici. Cannibali, ora mangiateci.